Prima di leggere questo capitolo ottavo di Giovanni, di questa terza domenica di Quaresima, chiamata Domenica di Abramo, vi ho detto che è un brano molto ricco ma molto complesso. E ho detto chissà se riesco a dirvi qualcosa di predica, perché io la predica ce l'ho ben chiara nella testa. Si tratta di vedere se riesco a spiegarmi usando parole che interessino voi. Sostanzialmente questo brano parla di uno scontro tra Gesù e i giudei. E lo scontro è basato sul dire: se voi ascoltate la mia parola e credete in me, siete figli di Dio, conoscete la verità che c'è presso Dio, e la verità è la vostra libertà. Ma questo dà la mosca al naso a questi giudei. Come sentono parlare di libertà, dicono: un momento, è vero che noi siamo sotto il tallone degli occupanti romani, ma noi siamo un popolo libero. Abbiamo una coscienza libera dentro di noi. E Gesù dice: a me non pare. A me non pare che voi seguite la strada di Abramo. Abramo è stato un fedele servitore di Dio. Voi, a me, che vengo come messaggero di Dio, voi volete ammazzarmi. E da lì nasce questa affermazione fortissima di Gesù: voi non avete Dio come padre. Il vostro padre è il diavolo. E qui fa una descrizione di Satana tremenda, eh? Satana è un mentitore. Fin dall'inizio ha ingannato Adamo ed Eva. Anche a loro ha detto: disubbidite a Dio, non osservate il suo comando, sarete liberi, conoscerete il bene e il male, la libertà. E abbiamo visto di che libertà si è trattata. E la stessa cosa la fa ancora oggi, dice Gesù. Anche con voi vi dice: ma rifiutate i comandi di Dio, rifiutate me che sono il messaggero di Dio. E voi ci cascate e venite a dirmi che siete liberi. E questo, dopo tutto il discorso che abbiamo sentito, li conduce a un tentativo di assassinio. Allora raccolsero delle pietre per gettarle contro di lui, ma Gesù si nasconde e se ne va dal tempio. Che cosa può insegnare a noi questo brano? Questo brano in sé, per quel tempo, è chiaro. Questa gente ha rifiutato Gesù. E a noi, ora vorrei farvi notare una parte che siete stati molto attenti e vi lodo, ma temo che vi sia scappata. Se guardate le prime frasi, io ve la rileggo. Il Signore Gesù disse a quei giudei che gli avevano creduto. Capite? Tutto questo discussione, questo tentativo di uccidere Gesù, nasce da persone che si dicevano credenti in Gesù. Allora questo è facilissimo da applicare al nostro mondo. Ancora oggi, il nostro mondo, almeno qui da noi in Italia, si dichiara cristiano. La nostra parrocchia presumo che sia battezzata al 90%, presumo, e viene in chiesa il 3% alla domenica. Voi siete tra questo 3%, ma ci guardiamo in giro, quanti posti liberi. Ora, adesso io smetto di ragionare sulle persone e ragiono in generale sulla società. è una società che si dichiara cristiana. Se io dovessi incontrare i miei parrocchiani, tutti mi direbbero: non vengo in chiesa, però sono credente. Io non sono Gesù e mi guardo bene dal dire: ma tu sei figlio di Satana. Mi guardo bene dal dire questo. Questo lo può dire solo Gesù, che è figlio di Dio, che ha l'autorità per dirlo. Però a ben guardare, amici, chi rifiuta Dio magari sono i nostri familiari, quelli che ti dicono: tu vai pure in chiesa, ti lascio libera di andare, e non si confessano da una vita e non fanno la comunione da una vita. E se guardiamo questo Vangelo dobbiamo dire: voi obbedite al serpente che dice: ma no, non seguire i comandamenti di Dio, sei libero di andare a fare footing, guarda che bella giornata, sei libero di fare i mestieri, lavori tutta settimana, e adesso forse un po' di meno con la pandemia, ma quanti suggerimenti falsi il diavolo ci dà. E allora posso parlare anch'io in generale del diavolo, perché non mi riferisco alle persone singole, ma che questa nostra fase della vita cristiana sia sotto il sole di Satana, mi pare che è evidente. E non ci dice la verità sulle cose. In particolare io tenterei di dirvi come Satana ci mente sulle cose importanti. Chi è l'uomo? Beh, il Vangelo mi dice: figlio di Dio. Tutto ciò che faremo al più piccolo di queste persone, anche a dargli un bicchiere d'acqua, lo faremo a Gesù stesso. Ah no, la nostra società no. Chi è l'uomo? È uno che devi sfruttare. È uno che devi vendergli i tuoi prodotti, in promozione o non in promozione. È uno che devi tirare dalla tua parte quando si andrà a votare. È uno che devi spremere. Amici, a me viene veramente da piangere quando sento che in tante parti d'Italia gli immigrati sono pagati 3-4 euro all'ora, 5 euro, e portano a casa quasi niente e vivono in catapecchie degne dei topi. Altro che i figli dell'uomo, altro che i figli di Dio. Chi suggerisce a questi nostri fratelli che lo sfruttano, che sono battezzati, sono italiani, sono persone che hanno fatto la prima comunione, coloro che avevano creduto in Dio, come è trattato l'uomo? Sto parlando, ripeto, della società. Noi non facciamo così, però anche noi i nostri peccati verso l'umanità ce li abbiamo. Basta che uno ci offenda, e noi non ragioniamo come Gesù: Padre, perdona loro perché non sanno quello che fanno. Basta che uno parli male di noi, ci tratti male, e non facciamo come Gesù che va da Giuda e gli dà un bacio e gli dice: amico, mi tradisci? Con un bacio. E anche noi siamo servi di Satana riguardo agli uomini, ma anche riguardo alle cose. Le cose Dio ce le ha date come strumenti a nostro servizio, ma provate a pensare l'uso che noi facciamo delle cose. Quante volte noi siamo servitori delle cose, dai soldi alle cose che possediamo? Noi non ci serviamo delle cose in generale, noi siamo servitori delle cose. E infine Satana ci tradisce sul senso della nostra vita. Gesù in tutto il Vangelo parla della vita eterna, noi invece la vita eterna esce dalla nostra prospettiva. Tant'è vero che quando naturalmente la natura ci porta alla morte, noi ce la prendiamo con Dio. Noi ci sentiamo traditi da Dio. Ma perché Dio mi ha dato questa malattia? Ma perché Dio ha fatto succedere questo incidente? Ma perché Dio addirittura ha mandato questa pandemia? Ma Dio dov'è? Dicono coloro che avevano creduto in Gesù, coloro che sono battezzati, cari amici. Spero che abbiate compreso che io non volevo scagliarmi contro nessuno, perché io sono dentro anch'io nel mazzo con tutti voi. Sto parlando della nostra vita, di noi battezzati. Gesù disse a coloro che avevano creduto in Lui: se rimanete fedeli alla mia parola. Il fatto è che il Vangelo in casa nostra non gira, amici. Che i nostri modi di ragionare non sono secondo il Vangelo. Fate un esperimento, prendete una pagina di quaderno, dividetela in due e scrivete: il mondo dice, il Vangelo dice. E saremo sorpresi. Beati i ricchi, beato chi sta bene. E Gesù dice: beati coloro che piangono. Il mondo dice: se uno ti offende, fagliela pagare, non perdonargli, fagliela pagare, eh? E Gesù dice: porgi l'altra guancia. Proviamo a fare questo esercizio, amici. Potrebbe essere un bel esame di coscienza per la nostra prossima confessione.